Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. I giovani soprattutto non devono rassegnarsi, non devono limitarsi a protestare. Protestare ma scendere, muoversi e spingere, anche con la forza, e non tacere. Addio a Mario Monicelli e grazie per quello che negli ultimi mesi di vita ha fatto per i giovani di questo paese. Vogliamo ricordare così oggi il grande regista scomparso all'inizio di questa settimana con le parole che pronunciò solo 6 mesi fa. Ha 95 anni, ancora schierato a fianco del futuro dell'Italia, i suoi giovani di talento. Addio maestro. E oggi a Giovani Talenti Voci dalla Nuova Emigrazione continuiamo a raccontarvi storie di successo. Vi parleremo della scommessa vinta da due giovanissimi imprenditori romagnoli che a Shanghai hanno avviato la loro impresa di import-export. Uno di loro in Cina è rimasto a vivere. Quanto è facile o difficile aprire un business a Shanghai? E quali sono le principali differenze con l'Italia per un giovane imprenditore? Vi ricordiamo pure che è attiva Matching, la piattaforma online per partnership tra giovani professionisti italiani all'estero e nel bel paese. Le iscrizioni sono numerose, ora però è il momento di lanciare le prime proposte. Ma torniamo alla storia della settimana, che arriva dall'estremo oriente. L'Italia è un bellissimo paese per le vacanze. Al momento non è il paese giusto per lavorare e soprattutto non è il paese giusto per dare avvio a attività imprenditoriali. Da quando vivo in Cina ho scoperto l'Italia come turista. Roberto Fabbri, 29 anni, è general manager a Shanghai per una società italo-cinese da lui cofondata. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Supera quota 4 milioni il numero di italiani all'estero, lo afferma l'ultima edizione del rapporto Italiani nel Mondo, dossier statistico di Fondazione Migrantes, presentato giovedì. Il rapporto conclude anche la nostra inchiesta a puntate sui numeri della nuova immigrazione professionale. Delfina Licata, la curatrice. All'8 aprile 2010 gli italiani residenti all'estero, secondo l'AIRE, sono oltre 4 milioni. Dal 2006 ad oggi abbiamo riscontrato un aumento di oltre il 30%. Comunque questo non determina delle differenze nelle caratteristiche, nel senso che si tratta comunque sia di una emigrazione euroamericana, un'emigrazione che parte dalle regioni meridionali, un'emigrazione che è sempre più costituita tanto da donne tanto da uomini, e un'emigrazione che comincia a svecchiarsi, al contrario le classi centrali e le classi dei minori aumentano. Voi avete fatto un focus molto importante sulla cosiddetta nuova emigrazione, che è al centro anche di questo programma Giovani Talenti. Cosa ci potete dire? Purtroppo non esistono dei dati ben precisi sulla cosiddetta fuga dei cervelli ogni anno, e proprio per questo abbiamo dovuto allearci con delle fonti secondarie. Per esempio una ricerca svolta dal Centro Nazionale delle Ricerche sulla Popolazione del CNR, e che ha cercato di indagare chi sono i ricercatori italiani all'estero, e conferma proprio che in prevalenza si tratta di giovani, anche se non più giovanissimi, all'estero da più di 10 anni, sono soprattutto impegnati nelle materie scientifiche, riconoscenti per aver trovato all'estero una maggiore gratificazione professionale. Ricercatori a parte, c'è qualche trend interessante sulla crescita di questa nuova immigrazione? Emerge soprattutto che l'estero sembra rubare l'Italia ai più bravi. Attuali mete di questa immigrazione, questa è molto molto importante, sono oltre che l'Europa, con Regno Unito in primis, gli Stati Uniti, ma si affacciano all'orizzonte nuovi sbocchi, quali per esempio l'Oriente e anche l'Africa. I cervelli italiani in fuga all'estero si sono portati via 4 miliardi di euro negli ultimi 20 anni, e il valore dei brevetti realizzati dai nostri ricercatori nei laboratori mondiali, calcolato dall'Istituto per la Competitività, la fuga appare inarrestabile. Il 35% dei 500 migliori ricercatori italiani abbandona il paese. La regione più colpita è la Lombardia, che si è lasciata sfuggire 1,7 miliardi di euro dall'89. Gli elettori over 50 tra 10 anni supereranno gli under 50, i giovani sono pochi e lo saranno sempre meno, hanno difficoltà a trovare lavoro e a fare carriera, su di loro non si investe. Lo denuncia un rapporto di Manager Italia, nel quale si sottolinea il rischio che sempre più giovani ad alto potenziale lascino l'Italia per carenze di opportunità. Secondo il rapporto, il vero problema è la nostra incapacità di attrarre talenti dall'estero. Il saldo tra giovani in uscita e quelli in entrata in Italia appare negativo, meno 1,2% contro il 5,5% della Germania e il 20% degli Stati Uniti. E la crisi colpisce soprattutto i giovani, in particolare quelli italiani, lo afferma la Commissione Europea. Per Bruxelles, i nostri giovani, assieme ai coetanei ciprioti e bulgari, sono tra i più in difficoltà nel continente a trovare lavoro dopo aver concluso la formazione. Martedì il tasso di disoccupazione giovanile registrato dall'Istat è leggermente sceso, passando al 26,2%, restiamo però oltre 6 punti sopra la media europea. E ora le iniziative per i giovani. Confindustria festeggia i 100 anni dalla nascita con un progetto destinato proprio a loro. 100 ragazzi, selezionati tra 7.000 laureati, avranno la possibilità di essere formati nel sistema confindustriale con contributi mensili di 1.000 euro. Ripartire dai giovani ruota attorno a questa idea la campagna lanciata da Italia Futura, che fa tre proposte: meno tasse per i giovani, agevolazione per la creazione di nuove imprese per le under 34 e infine più borse di studio. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. Un economista all'International Copper Study Group di Lisbona in Portogallo, scadenza per i CV 25 dicembre, info su icsg.org. Un avvocato all'unità risorse umane di Europol all'AIA, scadenza per i CV 3 gennaio, info su europol.europa.eu. E infine ETS cerca un coordinatore per un progetto sulle lingue e l'educazione superiore, sede di lavoro Parigi, richiesta la laurea in lingua e letteratura inglese, scadenza per i CV 15 dicembre, info su ets.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta ancora una volta a Shanghai, capitale economica della Cina e sempre più terra di approdo per giovani professionisti italiani di talento. Nome: Roberto. Cognome: Fabbri. Età: 29 anni. Città di origine: San Mauro Pascoli. Studi: laurea in marketing e comunicazione d'azienda. Anno in cui hai lasciato l'Italia: dicembre 2005. Per andare dove? Shanghai. Perché? Per un progetto imprenditoriale. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono il GM di una trading company di vino. Dove? A Shanghai. Tornerai? Per il momento no. Atmosfere cinesi per iniziare a raccontarvi questa storia di imprenditoria made in China, per l'appunto, dove i protagonisti sono però due giovanissimi imprenditori italiani. Due giovani che probabilmente possono insegnarci come possiamo vincere con un po' di furbizia e astuzia anche sui mercati globali. Ma servono probabilmente forze fresche, ben addestrate a fronteggiare la globalizzazione. Serve insomma una nuova classe dirigente. Entrambi questi giovani si chiamano Roberto. Buon pomeriggio per cominciare a Roberto Fabbri, 29 anni e una vita in pianta stabile a Shanghai ormai, no? Buon pomeriggio, e la mia vita si è a Shanghai da ormai 5 anni. Buon pomeriggio anche a Roberto Rossi, che ci raggiunge invece dalla ben più vicina Romagna, ma che tiene sempre le antenne ben puntate verso Oriente, no? Buon pomeriggio a tutti, sì sì, di base a Rimini ma col filo diretto con Shanghai. Con Roberto Rossi torneremo a parlare tra poco, iniziamo però a parlare ora con Roberto Fabbri, che in questa avventura imprenditoriale non entra subito e capiremo anche il perché. Roberto, la vostra storia comincia fin da giovani, quando nel cuore della Romagna tu, Roberto Rossi e Luca, il terzo componente del trio iniziale, vi trovate a trascorrere 5 anni insieme in un piccolo liceo scientifico di periferia, come scrivi a giovanitalenti@radio24.it. In quegli anni si cementifica tra voi una forte amicizia e stima reciproca, poi, finito il liceo, le vostre strade si dividono. Tu e Luca vi iscrivete all'Università di Urbino, indirizzo marketing. E perché questa scelta? La scelta nasce dal fatto che fin dal liceo amavo l'economia, ma non ero particolarmente portato per i numeri, insomma, non amavo i numeri. Dunque mi piaceva l'idea di abbinare quelli che erano i principi economici alla creatività. In quel periodo l'obiettivo è laurearsi il prima possibile, tu scrivi. Eravamo impazienti di buttarci nel mondo del lavoro e provare nuove esperienze. Nel 2005 arriva la laurea, a posteriori però che giudizio dai di quella esperienza universitaria? Positiva, anche se con i classici problemi dell'università italiana. Un'università molto teorica, poco pratica, piuttosto dispersiva. Vi laureate tutti e tre praticamente in contemporanea, siete pieni di idee, ma nell'immediato non si concretizza nulla, e per questo tu inizi uno stage in un ufficio controllo e gestione di un'azienda praticamente sotto casa. Quella resterà di fatto la tua unica esperienza lavorativa in Italia. Solo a livello di sensazione, che idea ti sei fatto dell'opportunità di lavoro nel nostro paese per neolaureati ambiziosi come eravate voi all'epoca, e soprattutto del tipo di esperienze e contratti che vengono offerti qui? L'esperienza io la giudico positiva, questa breve esperienza in Italia. Perlomeno ho avuto un primo approccio con un'azienda. Per quanto riguarda i contratti, veramente un no comment. Perché no comment? Sapevo che no comment perché mi sembra che mi pagassero tipo 200 euro al mese e avevo questo contratto. Un lusso. Da stagista. Un vero lusso. Sì. Sapevo già però che se avessi voluto mettere da parte due soldi sarei andato come tutti gli anni a fare una stagione in un hotel. Il mio obiettivo principale all'epoca era quello di imparare qualcosa. Intanto Roberto Rossi e Luca, il terzo componente del trio, fanno un viaggio esplorativo a Shanghai. Richiamo in causa Rossi allora. L'Italia vi andava un po' stretta da neolaureati? Sì, poi io venivo da un'esperienza di università in giro per il mondo, e quindi sai, tornare comunque a casa, eravamo giovani, la voglia di esplorare il mondo era tanta, e quindi un'occasione a Shanghai ci è sembrata imperdibile. Fu amore a prima vista, scrivi Roberto a giovanitalenti@radio24.it. Shanghai emanava energia allo stato puro, ne fummo subito rapiti, si trattava solo di capire cosa fare. Roberto Rossi, spiegaci in termini concreti cos'è questa energia che emana la Cina e soprattutto la ritrovi anche in Italia? Non la ritrovo assolutamente in Italia. In Italia ritrovo la depressione, mentre in Cina l'energia che si respira è una cosa oggettiva. Io penso che qualsiasi persona a Shanghai percepisca un'energia data dall'economia in grande crescita, data da ristoranti nuovi che aprono, negozi nuovi che aprono, palazzi in continua crescita, cioè è una cosa che si percepisce proprio sulla pelle, il boom economico si percepisce sulla pelle. Torniamo ora con Roberto Fabbri, vedi tornare tu questi esploratori carichi di energia, pieni di progetti, a quel punto si concretizza la vostra idea di business Love Sicily, nome curioso soprattutto se abbinato a dei romagnoli, spiegaci meglio che progetto era e come l'avete realizzato. Love Sicily è stato il progetto che ci ha portato in Cina. Era fondamentalmente l'idea di distribuire vini di 3 cantine siciliane. Il progetto parte in Italia, contattiamo tramite conoscenze, insomma rapporti che già avevamo in Sicilia, le cantine, partiamo con questa grande idea di distribuire il vino in Cina e le cantine ci danno fiducia e così incominciamo a stabilire una piccolissima società, all'epoca non potevamo neanche definirla società, in Cina. Tu in pochi mesi segui Roberto Rossi e Luca in Cina, si trattava per te di una terra più inesplorata rispetto a loro, già più veterani. Com'è stato l'impatto iniziale anche a livello pratico? Quali sono i pro e i contro, gli adempimenti burocratici? Insomma, facci capire questo primo impatto. Il rapporto con la Cina è sempre quello di un rapporto di amore e odio. La Cina ha questa energia di cui parlava Roberto prima che ti rapisce veramente. L'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia è che poi è un paese molto diverso da dove viviamo. È un paese sì in via di sviluppo, ma che ha ancora ampie zone veramente povere, veramente rurali. Per quanto riguarda i problemi burocratici, vabbè, uno dei principali è quello del visto. Un visto turistico è molto facile da ottenere, ma sicuramente un visto di lavoro, un visto che ti deve portare a stare in Cina per anni, diventa complicato, specialmente in una prima fase, quando ancora non si hanno le conoscenze o comunque non si sa come la burocrazia cinese funziona. Con tenacia superate le difficoltà legate alla burocrazia cinese, le cui dinamiche, appunto un po' l'hai detto, sono totalmente diverse dalle nostre, alla fine però riuscite a riorientare le strategie di marketing e distribuzione e Love Sicily si trasforma in Amore. Cos'è Amore? Spiegaci l'idea imprenditoriale alla base. Amore è un marchio d'ombrello che comprende principalmente le più importanti varietà di vino italiane. Amore, in un secondo momento, una volta stabilito il marchio, diventa anche una società di distribuzione che si occupa della distribuzione di alcuni dei principali marchi di vino in Italia. E come vanno gli affari? Voi avete aperto anche un ufficio in centro a Shanghai, avete assunto del personale, siete giovanissimi, meno di 30 anni. Gli affari vanno bene, possiamo dire di aver superato con successo la lunga e complicata fase di startup e adesso insomma il business sta migliorando giorno per giorno, anno per anno, complice l'espansione della Cina che ovviamente porta anche una grandissima espansione del mercato del vino nel territorio cinese. Roberto Fabbri, siamo nel 2010, sei, ironia della sorte, l'ultimo ad essere arrivato in Cina e l'unico del trio iniziale rimasto. Nel frattempo Luca vi ha lasciati ed è andato a Barcellona, Roberto Rossi è tornato in Italia, tu a Shanghai ti sposi nel frattempo, metti su famiglia e scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Ogni giorno mi rendo conto di assistere a uno dei boom economici più grossi al mondo, di respirare un clima di imprenditorialità, di voglia di fare, mettersi in gioco, che nessun altro paese o città al mondo può offrire. E l'Italia, verrebbe da chiederti, ci respiri la stessa aria quando torni? L'Italia è un bellissimo paese per le vacanze. Al momento non ho, complice probabilmente questa grande crisi economica che affligge l'Europa e non solo, non è il paese giusto per lavorare e soprattutto non è il paese giusto per dare avvio a attività imprenditoriali. Da quando vivo in Cina ho scoperto l'Italia come turista, vado in Italia una volta all'anno, due quando sono fortunato. Sì, bello dal punto di vista paesaggistico, ma ancora numerosi problemi quando parliamo di imprenditoria, quando parliamo di lavoro. Mi collego a questo per la domanda di rito, Roberto. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Per certi aspetti rispondere agli italiani. Tutti coloro che conosco, gli italiani che conosco qua in Cina, sono sempre criticissimi nei confronti del loro paese. Spesso hanno ragione, però un atteggiamento diverso aiuterebbe. Poi cambierei sicuramente quella che è la struttura politica, lasciatemelo dire, e poi cambierei quelli che sono il modo di fare formazione in Italia. È impensabile che ancora in Italia ci siano persone laureate addirittura che non parlino inglese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Roberto Fabbri, 29 anni, general manager a Shanghai dell'azienda Amore, un'impresa specializzata nell'import in Cina di vini italiani. Roberto è giunto a Shanghai giovanissimo per realizzare questo sogno imprenditoriale insieme a due amici d'infanzia. In Italia è rimasto poco dopo la laurea in marketing, solo uno stage poco significativo vicino casa. Poi l'avventura cinese, alla quale non ha saputo resistere e che lo ha riempito di entusiasmo, come abbiamo appena ascoltato. Ci raggiunge ora nuovamente in linea Roberto Rossi, uno dei due amici di infanzia di Fabbri. Rossi, di Amore, è il presidente, vive a Rimini. Roberto, come spiegavamo poco fa, ha deciso di seguire infatti gli affari dell'impresa dalla Romagna, senza ovviamente trascurare i viaggi di lavoro in Cina. Allora Roberto, posto che il vostro business è a tutti gli effetti italo-cinese, tu ora ti metteresti a creare un'impresa interamente concentrata in Italia o preferisci comunque un tocco est? No, io sono molto attratto dai mercati emergenti e la Cina in cima alla lista. Quel famoso sviluppo economico di cui parlavamo prima è anche poi la carica per lanciare una nuova attività imprenditoriale. E allora raccontaci un po' com'è questo ambiente imprenditoriale in Estremo Oriente, soprattutto se sei giovane e ambizioso. È difficile per uno straniero sfondare? Difficilissimo. Forse Roberto Fabbri prima l'ha fatta più bella, è stata dura. I primi 2-3 anni sono stati molto molto duri e abbiamo dovuto scontare e abbiamo dovuto superare le difficoltà dello straniero in Cina, un paese totalmente diverso. In Cina non si riesce a leggere un documento, non si riesce a leggere un cartello stradale, le barriere grosse sono queste. Altra barriera grossa è la cultura del cinese, che, ed è questo che voleva dire Roberto Fabbri forse prima, è molto patriottico e ci tiene molto a stare per conto suo. Cioè il cinese vuol fare business con un altro cinese, vuole arricchire un altro cinese, ed è questo il valore che manca all'italiano. L'italiano vuole fregare l'italiano. Questo è già, appunto, quando si parla, no, di fare squadra, sarebbe meglio fare squadra in qualche modo, anziché cercare di fregarsi a vicenda. Ma l'italiano nel DNA non ce la fa, non ce l'ha questa caratteristica. Comunque voi, Roberto, ce l'avete fatta in Cina. Tu intanto sei rientrato in Italia, dove continui a fare appunto l'imprenditore, e questa visuale ti permette probabilmente di trovarti in una posizione privilegiata per giudicare anche un po' le differenze tra i due paesi. E ti cito al proposito alcuni dati e dichiarazioni. Allora, secondo Andrea Di Benedetto, leader dei giovani imprenditori di CNA, l'Italia è un paese corporativo con barriere d'ingresso nel mondo del lavoro devastanti per un giovane. Secondo Confcommercio, che ha certificato il pesante calo del numero dei giovani imprenditori under 30 nel paese, allora sono scesi dai 278.000 del 2002 e 212.000 del 2010. Un brutto calo. E sempre meno giovani sono alla guida delle aziende italiane. Negli ultimi 5 anni l'imprenditoria giovanile, il 6% del totale, ha visto una diminuzione di oltre il 17%. Questo lo denunciano i giovani imprenditori di Confapi. Per la tua esperienza personale, l'Italia è un paese per giovani imprenditori? Difficile, molto molto difficile secondo la mia esperienza. Più della Cina? Più, molto molto più della Cina, in quanto in Cina la gente vive col sogno. Cioè il ragazzo cinese oggi che lavora in Cina considera che prende uno stipendio impensabile per i suoi genitori. Cioè è in un momento in cui la gente veramente vive una vita che non avrebbe mai sognato quando aveva 15 anni. In Italia è il contrario, in Italia i ragazzi avevano sogni incredibili, poi invece si scontrano che la realtà è quella che devono andare a chiedere a fine mese i soldi ai genitori. Se vogliono diventare imprenditori? Se vogliono diventare imprenditori, le banche sono sempre più ristrette nel dare credito e nel dare credito soprattutto alle nuove iniziative, perché tutto nasce dal credito bancario. Con la fiducia delle banche uno ci prova, senza la fiducia delle banche fai fatica a provare. E allora le banche si trovano che danno sempre più soldi a persone con le quali hanno più rapporti. Di nuovo il paese corporativo, relazionale, no? Esatto, esattamente, esattamente. E in Cina è diverso? In Cina... Se voglio fare l'imprenditore sono cinese. Se vuoi fare l'imprenditore sei cinese è molto più facile che qua, molto più facile avere credito bancario, molto più facile che l'iniziativa parta. Perché oggi il positivismo della mentalità cinese è un po' come negli anni 60 qua da noi. Quando uno ha l'idea buona, pum, parte. Roberto, voi in Cina state facendo affari con una delle punte di eccellenza del Made in Italy, il suo vino. Ai cinesi quello che affermate è che non vendete una bottiglia di vino, vendete un'esperienza. Allora la domanda è, un certo tipo di Made in Italy curato di eccellenza ha un futuro nel contesto competitivo globale e quale ruolo potranno soprattutto giocare i giovani, competenti dal curriculum internazionale e in grado di valorizzare questo Made in Italy? Assolutamente sì, penso che sia una delle grandi ricchezze dell'Italia il Made in Italy e dobbiamo far di tutto affinché nel mondo venga percepito questo, perché è una delle più grandi ricchezze d'Italia. Il cinese, come penso anche l'indiano, il russo, il brasiliano, hanno il sogno dell'Italia, quindi ci vorrebbero tanti giovani come noi che prendono su e vanno, ma noi siamo andati in giro con la valigia, col vino dentro, per le strade di Shanghai il 15 di agosto, per anni. Cioè, quello che devono capire, ragazzi, che ci vuole la gavetta. E questo secondo me che in Italia manca. Grazie a Roberto Rossi, presidente di Amore, e con Roberto Fabri la domanda finale, di rito. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Prima di andare in un paese, informarsi e magari, se si va in un paese senza avere il lavoro, dedicarsi a capire quel paese, viaggiare, imparare, capire la cultura, studiare la lingua. Questo aiuta tantissimo poi a trovare una buona posizione nel paese in cui si va. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi, seconda puntata della nostra inchiesta regionale, andiamo a indagare i programmi mirati o a sostenere il rientro degli immigrati oppure a sviluppare attività di formazione all'estero. Dopo il Veneto, tocca alla Puglia. Nicola Fratoianni, assessore alle politiche giovanili della regione. Ma la Puglia, diciamo, ha due strumenti principali. Uno è uno strumento che noi abbiamo chiamato Ritorno al Futuro. È uno strumento di finanziamento a fondo perduto da parte della regione di corsi di master di alta formazione per studenti pugliesi che non se lo possono permettere, e sostanzialmente c'ha questa idea di fondo, dice: noi ti mettiamo nella condizione di studiare, di farlo nella tua regione, in Italia, in Europa, naturalmente con consistenze del finanziamento diverse, e ti chiediamo di impegnarti a tornare nella tua regione, cioè a mettere a disposizione gli strumenti, la formazione che conseguirai grazie a questo finanziamento e al percorso che questo finanziamento ti metterà in condizione di sviluppare. Ti chiediamo poi di mettere a disposizione della tua terra, della tua regione, questi elementi di crescita, di formazione. Questo è il primo degli strumenti. L'altro è invece un piano di intervento ambizioso e che si chiama Distretto Industriale della Creatività. Sul primo programma in particolare, avete già dei numeri, avete già un feedback da parte appunto dei giovani? Noi abbiamo numeri importanti perché abbiamo finanziato tra la prima e la seconda edizione quasi 7.000 borse di studio, con un investimento molto rilevante. Ed è un programma che ha avuto la capacità di suscitare molto consenso tra le giovani generazioni. Non abbiamo ancora un dato preciso sul dato dei ritorni, dei rientri, anche perché naturalmente su questo si tratta di costruire col sistema d'impresa, per esempio, un link, una connessione che consenta di mettere in relazione le professionalità che si formano grazie a questo programma con le esigenze del tessuto produttivo del territorio. Ci abbiamo però appunto una risposta molto importante. Ecco, a livello macro, dove sono? Lei ha parlato di 7.000 giovani che hanno lasciato la Puglia e l'Italia per studiare all'estero. Dove sono andati e soprattutto quali sono poi anche state le aree di studio più gettonate? C'è, diciamo, una prevalenza delle aree scientifiche, questo non c'è dubbio. Il programma prevede tre tipologie possibili di master: una tipologia che riguarda proprio la Puglia, le università pugliesi, una tipologia che riguarda le università italiane, quindi in altre regioni, e la terza tipologia università invece straniere. Da questo punto di vista c'è una distribuzione, diciamo, che vede una maggioranza di preferenze nei paesi europei, con una distribuzione, devo dire, abbastanza omogenea, non c'è una concentrazione specifica. C'è invece sulle aree tematiche prevalenza, senza dubbio, delle materie di carattere scientifico e della formazione in ambito scientifico. Qualche riferimento normativo per chi volesse saperne di più e vive appunto in Puglia, magari anche giovane? Basta andare sul sito, in questo caso, dell'assessorato alla formazione professionale e cercare su quel sito tutti i riferimenti del bando Ritorno al Futuro. In questo momento noi abbiamo chiuso il secondo bando e stiamo valutando, anche cercando le risorse per costruire un terzo bando che possa dare altre possibilità ad altri giovani. Per maggiori informazioni potete cliccare su formazione.regione.puglia.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: qual è il principale fattore di attrattività all'estero per un giovane professionista italiano? Queste le vostre risposte. Nicola: personalmente credo che un ottimo bilancio tra vita lavorativa e sociale racchiuda tutti gli aspetti proposti e credo sia una cosa che scopri pian piano, lo dimostra il fatto che chi va all'estero lo fa per pochi mesi e finisce per restare anni. Domenico: si va via per cercare di vivere con felicità, per poter realizzare le proprie aspirazioni, per morire con dignità. Marco: il fattore principale che porta l'italiano a scappare sono la meritocrazia e la necessità di mettere in pratica le cose che ha studiato, venendo retribuito il giusto. Al momento la situazione italiana è tragica e non può che peggiorare. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Siete giovani e avete un'idea imprenditoriale che considerate vincente. Meglio avviarla in Italia oppure emigrare e poi, una volta poste le fondamenta dell'azienda al di fuori dei nostri confini, rientrare? Quale ambiente vedete più fertile per dare sfogo alle vostre idee? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva Matching, la prima piattaforma online per avviare partnership tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.